583. Torta svizzera. Sia o non sia svizzera, io ve la do per tale e sentirete che non è cattiva. Fate una pasta di giusta consistenza con farina grammi 300, burro grammi 100, sale quanto basta, odore di scorza di limone, latte quanto basta per intriderla e lasciatela per un poco in riposo. Prendete una teglia di mezzana grandezza, ungetela col burro e copritene il fondo con la detta pasta attirata alla grossezza di 2 monete da 5 lire. Col resto della pasta formate un orlo all'ingiro e collocatevi dentro grammi 500 di mele Rainette o altre di qualità tenera, sbucciate e tagliate a tocchetti grossi quanto le noci. Sopra le medesime spargete grammi 100 di zucchero mescolato a 2 prese di cannella in polvere e grammi 20 di burro liquefatto. Mandatela in forno e servitela calda o ghiaccia a 7 o ad 8 persone, che a tante potrà bastare. La cannella in polvere, l'odore della scorza di limone e il burro liquefatto sopra alle mele sono aggiunte mie, ma stando a rigore non ci vorrebbero.